ciò aver vinti più nemici, se privo di riposo e di conforto, dopo mille perigli, naufrago sono in porto. Padre, figlia, risolsi, e mai svelarti, forse l'interna pena tua, quella vuol dirti, parla, ma riapprometti, e mai, che dopo intesa del tuore la cagione, sì, ucciderai. Che parli? Ah, mio rossore, ardire, o figlia, e ne so di pur che il mio mortal cor paglia, già che il labbro non può, ti dica il foglio. Qual terribile mago di funeste sventure sarà dipinto in questo foglio? Io veggo vicino il mio terrore e l'apro e leggo. Padre, un fier traditore con occulto Imeneo sposa mi rese, poi partì, mi lasciò, si strinse ad altra donna e non gli basta. Mi vien dinanzi un'età quella e fassi giuoco dell'onor mio, della mia vita, veleno il più funesto, con temerario ardire, Argippo è questo. Argippo è questo. Addio, o padre afflitto, o mio perduto onore, o giorno infausto, o doloroso evento, o figlia, o traditore, o tradimento.